La donnola nel granaio, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Madamigella donnola, fresca di malattia e fatta ancor di corpo più lungo e mingherlino, in un vicin granaio un giorno penetrò per un foro che meglio diremo un forellino. E qui tanto mangiò, con tanta indiscrezione, di lardo e d'ogni tenero boccone, che grassa e bella in breve diventò. Un dì, verso la fine di quella settimana, udito dopo il pranzo un gran rumor di là, volea fuggir, ma come? Esclama, è cosa strana. Non son io forse un giorno passata per di qua? Com'è che il buco a un tratto divenne così stretto? E dopo molti inutili giri e rigiri, ovunque che la vada, crede sempre d'aver sbagliato strada. Un topo, che la vede in imbarazzo e in pena, le disse: «Ma non sai che allor non avevi ancor la pancia piena? Magra venisti, amica, e magra tornerai. Ciò che di te si dice, anima mia, a molti altri conviene, ma confonder le cose non conviene per far gran pompa di filosofia». Fine della favola «La donna nel granaio». Questa registrazione è di dominio pubblico.